il centro studi e il barrio proprietario. A Firenze c'era anche l'istituto agrario, che fu poi trasportato in piazza della Giù, dove c'è ora la caserma principale dei vigili urbani, lì a Porta Prato, che poi fu portato all'istituto, in quelle ora si chiama Istituto Agrario d'Oltremare, che fino al 1959 si chiamava Istituto Agrario Coloniale. Questo qui fino al 1969 si chiamava, laggiù dentro dove c'è il tram, si chiamava Centro Studi Erbario Coloniale. Non erano, allora, innanzitutto va sottolineato che non erano branche di istituti o sede a Roma o da altre parti, cioè proprio era, la sede principale era a Firenze. Ma soprattutto va sottolineato il fatto che, se si considera che l'Italia era un paese quasi esclusivamente agricolo nel periodo coloniale, e l'Etiopia, l'Eritrea e la Somalia erano paesi agricoli, cioè il discorso agricoltura era fondamentale, era quello, diciamo, da cui venivano depredate le ricchezze, da cui venivano portate le culture. Sostanzialmente c'era un aspetto culturale che era quello di negare, diciamo, l'agrarismo locale, no? Quello di Eritrea, cioè per esempio furono tolte tutte le colture del grano etiope e del tef, che è una sorta di sempre un cereale etiope, con cui se qualcuno ha mangiato quel pane spugnoso loro fanno, e quello è il componente principale del pane lì. E quindi fu tolto questo pane, e nello stesso momento fu questo tentativo supportato dal punto di vista, diciamo, della conoscenza, ma anche dal punto di vista tecnologico, da questi tre istituti, di immettere la coltiva del grano. Ci provarono, fecero un certo disastro perché non era supportato, diciamo, questa coltura non poteva essere supportata dal clima etiope, e nella sostanza ci fu un impoverimento del suolo, diciamo, per cui anche dopo la fine del colonialismo, prima fosse rimessa a cultura come era prima le terre etiopi, ci volle molto, molto tempo, insomma. Per cui questi istituti, diciamo, fornivano cultura ma soprattutto tecnologie ai coloni italiani, contadini, che però nella sostanza era una sorta di esercito coloniale, perché venivano tolte la possibilità di coltivare agli agricoltori locali, e nello stesso momento fu immesse queste colture estensive, in particolare appunto del grano, che rovinarono diciamo gran parte del suolo etiope, insomma. Tra l'altro il grano etiope, che veniva disprezzato, come quando si dice l'Africa non ha storia, così anche lì non c'è una cultura agricola, mentre in realtà c'era. Era diversa da quella europea. Tra l'altro il grano etiope, anche il TEF, viene questa nuova, diciamo, riscoperta, no, dei cereali, delle culture da altri paesi. Il grano etiope c'è la particolarità che è un grano molto duro e quindi molto resistente, e nello stesso tempo il TEF c'è la particolarità che è un cereale però senza glutine. In realtà loro sostanzialmente, cioè, avevano il pane senza glutine da sempre, e ora viene, diciamo, riscoperto anche da questo punto di vista. Non solo viene riscoperto, hanno cercato di fare, sì, di mettere il brevetto sul grano, e loro usano da millenni, hanno cercato di brevettarlo, e questo in Etiopia invece c'è stato un grande movimento contrario a questa cosa. Ma hanno chi? Quando? Chi? Questo istituto? Questo è l'armario. Sì, no, ma no, questa cosa no, no, no, no, gli americani, gli americani. L'istituto agrario d'Oltremare, come si chiama ora, è là in Largo Brail, vicino allo stadio. E per chi lo vede, siccome è stato costruito proprio nel periodo fascista, c'è proprio, cioè, l'architettura è quella sostanzialmente. E tra l'altro c'è, da una parte c'è il nero, il casco di banane, e dall'altra c'è il bianco con il grano, la spiga del grano, l'aratro, no? Insomma, c'è, cioè, proprio questa iconografia. Tra l'altro l'Arco Brail l'arco dei Coloti, che è cosa, che è proprio nella zona c'è l'istituto dei Cerri, insomma.